003, la locanda ritorna. Per chi non c'era, chi ha fatto tardi o non si ricorda. Per la mia gente è sorta, per chi resta e mi ascolta. Per chi sul marciapiede ci crede, chi mi supporta. Per chi taglia la corda, perché è una minchia morta. Per chi c'aveva la sua illusione, gliel'hanno tolta. Chi è gonfio con le corna, perché è una donna porca. Per chi non mi sopporta, ogni volta mi dà la forca. Ma il tempo mi trasporta, tolgo un flusso che sporca. I colletti bianchi dei politici da porta a porta. Tu dimmi a chi è che importa, di chi cazzo è la colpa. Tanto per quei minchioni siamo solo carne morta. Si riempiono la bocca con la fetta più grande della torta. E chi li lecca il culo si fotta. Ma mo il vaso trabocca, c'è gente che si è rotta di questa situazione del cazzo che non si sblocca. Di stare sempre in lotta, di sentire la stessa filastrocca. Trovatevene una di scorta. Aio, nevo sulle mani per chi porta la gente di merda, la guerriglia dalla grotta. Ganja nello schienfio e vino nella brocca. E se c'è sfida, zero problemi sotto a chi tocca. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia. Ricomincia la guerriglia, noi ci siamo e siamo qua. Zichinica, cricca, peppi, farmacista e ciuculà. Pronti a dare sempre il meglio raccontando la realtà. Perché onore porta in alto il nome di quest'isola. Con passione ed umiltà coltiviamo un ideale. È uguale, tanto vale non farlo che farlo male. Per me è normale, per me è una cosa naturale. Guidato dall'istinto di far muovere e ballare. Compare, mi pare di essere stato molto chiaro. È tempo di guerriglia, allora mettiti al riparo. Se non lo senti dentro, se lo fai per il denaro. Se non ti senti pronto, torna a fare lo scolaro. Il suono che spara il sapore amaro del sudore. Ed ogni giorno imparo che ogni volta è un'emozione. La vibrazione la scintilla parte il mio motore. Mentre i battiti del tempo mi scandiscono le ore. Un fiume di parole, tre uomini e una passione. Un solo nome, un solo scopo, un'unica missione. Con l'esperienza fatta in anni di preparazione. Chiusi dentro alla caverna a progettare l'invasione. 003, festeggiamo in questo modo. 00 chiacchiere, arriviamo dritti al sodo. Z è il nostro logo e questa rap è il nostro sfogo. Un chiodo fisso in testa a diffonderla in ogni luogo. Vieni a farti un giro in mezzo a questa meraviglia. Riempiti il bicchiere e porta in alto la bottiglia. Segui il mio consiglio, brinda con questa famiglia. Zichinnica, cricca, adesso ricomincia la guerriglia. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia. Anche dopo due anni qui siamo rimasti soliti. 03 lettere, 03 uomini. Portiamo grandi dosi di merda sui microfoni. E non pistole ad acqua, soldi falsi del Monopoli. Non ci sono metropoli, i giorni sono monotoni. Siamo nella caverna, vieni, basta che citofoni. Son 100% esplosioni di rap. Sono come missili USA sull'Iraq. Sono scritte improvvisate sul tovagliolo di un bar. Sono parole di chi ha visto e dice la verità. Perché c'è sempre un confine tra cazzata e serietà. Perché mi son rotto il cazzo di fare la carità. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia. 003, torna in mezzo alla famiglia. Tira sulle mani, hey, alza la bottiglia. Il suono originale la locanda ti consiglia. Aio, tutti insieme ricomincia la guerriglia.